parlo con la Zanzara, no, Radio ciao 24. Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino a Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che sì, tra l'altro... Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, no, niente no, male, no. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Caro David, continuano a dirmi, continuano a ripetermi, devi capirli, è gente disperata, è gente che è oppressa dal fisco, è oppressa da Equitalia, le cartelle esattoriali, i fallimenti, la povertà, e noi capiamo, e noi siamo disponibili a capire, siamo disponibili ad ascoltare, sia io che te. Io meno, ma insomma... Poi senti queste voci, senti, senti cosa c'è nel ventre di questi che magari si presentano in televisione con la faccia pulita, si presentano in televisione o alla radio dicendo delle parole moderate. Senti cosa c'è nel ventre di questi forconi, senti. Dici che vieni armato con una pistola e gli spari. Ma come cazzo fai? Ma Brady quello voleva fare, non voleva colpire loro, voleva colpirsi i bastardi. Questo è quello che bisognerebbe che fare, bene, non bene. Le chiacchiere. Ma secondo te, ma uno secondo che è portato all'esasperazione, che cazzo deve fare? Deve prendere una pistola, sta dicendo. Ma allora a sto punto, secondo te, non c'è po' la violenza, però te ci costringono. E non bisogna spararsi, bisogna sparare. Quello è quello che tocca fare. Che deve andarsi a impiccare sto pezzo di merda, quello è un pezzo di merda. Capito? Da D'Alema, da D'Alema riprende tutti. D'Alema è un altro pezzo di merda. Merda. Bastardi! Dico. E questi stanno qui a non fa un cazzo così! Capito? A difendere chi? Chi difendono questi? La polizia dice. Chi difendono? Difendono sti quattro infami! Chi cazzo stanno a difendere? Senza lavoro da 2 anni, non so dove cazzo sbattere la testa, e quei porci politici di merda devono andare a casa, ci avete rotti i coglioni. O vanno a casa o viene fuori una rivoluzione, a ferro e fuoco tutte le città. Gli italiani è ora che si svegliano. Manifestare e bloccare l'Italia intera è un nostro dovere. Non posso che legare. Siamo a favore con la mafia. La fiamma a favore con la mafia, la veramente, ma la vera mafia, non quella dello Stato, perché quella dello Stato non ci permette di vivere, la mafia, mafia perché perlomeno la mafia ci permette di vivere. Senti quest'altro, soldi agli zingari, senti, senti quest'altro, poi uno dice che deve, poi uno dice che deve solo ascoltare e deve capire, eh. Hanno stanziato 5 milioni di euro per gli zingari. Solo esclusivamente per gli zingari. Ma io che sono italiano sono senza casa, senza soldi e senza sigarette. Bruci la città. Questo non si è capito cosa vuole. Cioè che non vadano i soldi agli zingari. Le sigarette, ma, che c'entrano, ma vuole i soldi per le sigarette. Damogli 2 lire per le sigarette a questo, no? Questo deficiente qua, questo imbecille. Damogli 2 lire per le sigarette, dai. Bruci la città. Oh, ieri il sindaco di Bari Emiliano ha detto che Berlusconi e Grillo ispirano la protesta. Il pregiudicato Berlusconi, noi forse abbiamo detto i pregiudicati Berlusconi e Grillo, ma il pregiudicato si riferiva solo a Berlusconi, che secondo me invece non ispirano affatto la protesta, magari la cavalcano ma non la ispirano affatto. Emiliano, qui abbiamo una situazione che sembra frutto di un coordinamento generale di tipo nazionale. abbiamo due importanti leader politici come Berlusconi e come Beppe Grillo che per vie diverse sostanzialmente ispirano questa protesta, l'uno chiedendo ai carabinieri di disobbedire ai loro comandanti e l'altro dicendo che se mi arrestano faremo la rivoluzione. Allora, c'è stato l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, così dicono, così ce la raccontano. Nel 2017. Appunto, sentiamo Letta, va, quest'altra panzana che ci rifilano oggi. Per carità, un piccolo passetto avanti ci sarà pure, non diciamo di no, però è una panzana, innanzitutto perché è stato preso un disegno di legge, cioè una legge in Parlamento ed è stato trasformato in decreto legge entro dicembre, per dire entro l'anno abbiamo mantenuto la promessa. Letta. Oggi il governo approva un decreto legge con l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti e dell'attuale regime dei contributi. Non è vero, i soldi li prenderanno fino al 2017, meno. Poi ci sarà il 2 per 1000 che è una cosa molto contestata, perché si può dare solamente ai partiti rappresentati in Parlamento. Beh, certo. Ma certo, manco per niente. Se io lo voglio dare al partito dei Forconi, lo voglio dare al partito dei Forconi, per esempio. Perché lo devo dare per forza ai partiti rappresentati in Parlamento? I miei soldi li do a chi mi pare. Non solo a quelli in Parlamento. E altre cose ancora. Beh, lì gli puoi fare una donazione privata. Una detto. Pantomima, dai, una pantomima. Che orrore. Questo è quello che so fare. Io non posso che questo tuo profondo amore. Oh, Brunetta a un certo punto se la prende ieri col leader dei Forconi Ferro e ripete per 12 volte una cosa in loop. Sai come fa Brunetta, no, David? Ma se me lo fa dire, onorevole Brunetta, l'interruzione le faccia un'altra parte, con me non le fa. Perché fa l'interruzione? Onorevole Brunetta, mi dica una cosa. Perché sei candidato Avola? Onorevole Brunetta, lei mi deve dire una cosa. Voi mi siete convinti? Perché sei candidato Avola? Voi vi siete convinti che lo Stato è proprietà privata? Ma non è... Mi dovete candidato? Togliere dalla testa perché la crisi arriverà come uno tsunami su di voi. E non sappiamo nemmeno che effetto avrà. Ma lasci perdere, onorevole Brunetta. Ma guardi, lei è da 20 anni sulla testa dell'onda. Onorevole Brunetta. È stupendo. Perché si è candidato ad Avola? Perché si è candidato ad Avola? 12 volte l'ha ripetuto. Ma sei vivo oppure morto, Parenzo? Sono vivissimo, ma sei vivo? Mi senta bene perché il telefono è fisso. Tutto a posto. È con noi il nuovo segretario della Lega, Matteo Salvini, buonasera. Buonasera a voi. Eccoci, come andiamo? Bene, bene, anche perché domani... Che succede domani? Il primo compleanno della bimba. Oh, ah, bravo. Beh, questa è una bellissima notizia. Meno male. Beh, a proposito, come ha preso la famiglia questo nuovo incarico? Io penso che sua moglie è incazzata come una bestia, perché insomma lei deve fare il tour d'Italia. No, mi è sempre stata vicina e continua ad essermi vicina. Si troverà tempo per tutto, ovviamente per la cosa più importante che è la casa e poi per la passione, il lavoro, gli incontri, l'ascolto, i Forconi e tutto il resto. No, i Forconi no. No, i Forconi, Forconi no, i Forconi no, Salvini dai. Ma guarda, a Milano ad esempio in piazza ci sono degli allevatori che hanno ragioni da vendere. Ma che c'entra? Ma hai visto che cosa dicono? Ha sentito cosa dicono questi qua su... No, ma ce n'è qualcuno che non ha le idee molto chiare, ce n'è qualcuno che non sa di essere al mondo, c'è qualcuno che si infiltra, fa casino, lancia bombe molotov. Ma lei che farebbe a Befera? Esilierei sull'isola deserta del Pacifico insieme alla Fornero. Cioè dovrebbe andare, scusi un attimo, dovrebbe essere esiliato, mandato via dall'Italia. Assolutamente, Befera la Fornero secondo me sono. Ma lasciamo perdere la Lasciamo perdere la Fornero. La Fornero può essere. No, la Fornero dico, lascia perdere la Fornero che ormai non è più ministro. Befera però è attualmente il capo della GSE. È sempre in giro a pontificare, invece di scappare per la vergogna, di essere fatta scappare a calci per la vergogna in giro a pontificare, vabbè. Signore. Beh, può parlare adesso, voglio dire, non è che non ha commesso reati, mi sembra. È un dirigente dello Stato. Peggio, ha fatto di peggio. È peggio lei dei Forconi, sicuramente. Sì, peggio sì, peggio ha fatto più danni lei, ma fuori dubbio. Peggio dei delinquenti pure, peggio di quelli che sono in galera. No, no, ha messo in mezzo a una strada migliaia di persone. E Befera invece che reati ha commesso per essere esiliato? No, nessun reato, però è esecutore nella maniera peggiore possibile di una normativa da Stato ladro. Però ricordo che le normative su Equitalia le avete approvate anche voi come Lega, eh? Lei se ne dovrebbe... No, ma per carità, confronti. Ma, potevano essere giuste in un momento che non era di crisi epocale come quella di oggi. Ho capito, però i poteri adesso a Equitalia li avete dati adesso, voi, i poteri a Equitalia, li avete dati voi. Appunto, adesso cambia il mondo, adesso si dovrebbero sospendere esecuzioni, fallimenti, requisizioni delle case perché uno non ce la fa pagare il mutuo, adesso c'è la crisi. Ma lo sa che è minacciato Befera, è minacciato pesantemente? No, beh, la violenza non deve esistere da nessuna parte al mondo. Detto questo, secondo me rappresenta il peggio dello Stato italiano. E dovrebbe andare via dall'Italia, esiliato dall'Italia? Sì. Esiliato. Ma come si fa a esiliare uno? Vabbè, traffico, dai, torniamo subito. Le zanzare di casa. Caro Dell'Utri, siamo ancora qui. 800 24 00 24. È con noi il nuovo segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, che si chiama curiosamente come il nuovo segretario del Partito Democratico. Matteo, non è che si vergogna un po' di questa cosa, Salvini? No, no, anzi, il 21 settembre, che è San Matteo, festa nazionale, aggiungo su Equitalia, che comunque la regione Lombardia dal gennaio dell'anno prossimo. Sì, lo so, è vero. Li sfratta e quindi sarà bisogna vedere direttamente. Bisogna vedere chi riscuote poi, perché non è che perché Equitalia riscuote con meno interessi. Beh, ma Equitalia in realtà poi bisogna dire anche le cose come stanno. Ci sono stati degli abusi pazzeschi e siamo d'accordo, però prima la riscossione di quelli che rubavano, contro cui dovreste scagliarvi, era quasi zero, cioè la gente prima rubava, non pagava un cazzo e nessuno riscuoteva. È arrivata Equitalia che ha commesso abusi, eccetera eccetera, esagerazioni, e la riscossione è tornata di moda in Italia. Ma lasciamo perdere questo argomento, perché sarebbe troppo lunga la cosa. Ma volevo chiedere a Salvini se si ricandida al Parlamento Europeo. Beh, abbiamo un congresso domenica, quindi una cosa alla volta. Mi piace la battaglia europea, secondo me è la battaglia con la B maiuscola. Dunque ti ricandidi, ti ricandidi. Ma a me piacerebbe. Meglio lì che a Roma. È la volta buona che a Bruxelles ci potrebbe essere una maggioranza non di euroscettici, populisti o incazzosi, che vuole un'altra Europa e ricostruisce un'Europa da capo. Non ma anche Borghezio lo ricandidate? Ma non lo so, adesso come faccio a fare le liste elettorali? Borghezio è un personaggio importante, nonché controverso, sarebbe questo. La nostra priorità è cosa fare, ricostruire questa Europa e rottamare l'euro, se serve uscendone, visto che ne avremo solo vantaggi. Detto questo, chi ci sta ci segue. Ma un suo, una persona molto vicina a lei che si chiama Gianluca Pini ha detto in realtà non bisogna uscire dall'euro, bisogna che ci sia l'euro solo per il nord e non per il sud, cioè staccarvi. Voi avete ancora in testa questa cosa? Guardi, la priorità in questo momento è il lavoro. È il lavoro per il lavoro, ma per tutta lavoro, l'Italia. Questi vincoli europei fottono il lavoro, fottono l'agricoltura e ammazzano gli stipendi. Però, quindi la priorità è a proposito di violenza, lei dice contro la violenza, no? Però mi sembra di aver letto da qualche parte che con Letta lei vorrebbe usare il forcone. Semplicemente detto che se uno parla nel momento in cui il paese è in piazza perché ha fame, parla di legge elettorale, di indulto e di amnistia, non si stupisca se poi i forconi entrano in Parlamento. No, d'accordo, però bisognerebbe andare a cercarlo col forcone, questo dico. L'IMU lunedì, perché c'è gente che non ha i soldi per l'IMU lunedì, e a Roma parlano della legge elettorale, ci sta che uno si incazzi, perché uno non mangia pane. E dunque è legittimo entrare in Parlamento coi forconi? E quindi è legittimo metaforicamente prendere a pedate quelli che si occupano di temi che metaforicamente, non interessano assolutamente alle persone. Ma perché non fate dimettere Cota, lei che è diventato il capo della Lega, che pare abbia fatto diverse cose? No, pare, fatto... ma la differenza sta nel pare. Beh, pare, però pare. Ci sono, dice che la colpa è della segretaria, alcune cose sono accertate, che ci siano state Quando, al di là del pare... Quando mi dimostreranno che qualcuno ha speso un euro in mala maniera, interverremo in un secondo, l'abbiamo già fatto negli anni passati. Per il momento l'unica certezza della regione Piemonte è che grazie alla Lega e a Cotta i cittadini piemontesi pagano 30 milioni di euro all'anno in meno la politica del Piemonte. Allora, se è vero che lui ha messo nella nota spese della regione 40 euro per le mutande, per fare un esempio, si deve dimettere sì o no? Oppure non è che può dare la colpa alla segretaria? No, ma sono stato chiaro, no? non entro nel merito delle segretarie, non scarico le colpe su altri. Lui l'ha fatto chiunque. Ma chi l'ha deciso, lei? No, si è letto da qualche parte. Abbiamo letto. Io oggi ho letto sui giornali. Che no, ma non è solo letto. Lui ha detto. Sono i verbali. Salvini ha preso dei fondi neri. Adesso, ma quello lo dice Belzito, è un'altra cosa. Appunto. Vabbè, ma quello è da verificare. C'è gente che dice tante fesserie. Quello è da verificare. Ecco, agli atti della Regione Piemonte risultano 30 milioni di euro di risparmi per la politica. Sulle mutande, quando verrà certificato qualcosa che riguarda la pizza, il cappuccino... Ma lui ha mutande, detto che ha sbagliato la segretaria a metterlo in nota spese, questo è il punto. Ma lui ha anche detto che quelle mutande le ha pagate. Le ha pagate? Se facciamo il dibattito sulle mutande, no, le pagate di tasca sua. Detto questo... Il dibattito sulle mutande non mi appassiona perché 30 milioni di euro di risparmi valgono circa un milione di mutande. Quando verrà dimostrato che qualcuno ha sbagliato, abbiamo buttato fuori deputati, senatori, consiglieri. Dunque, Cota si è accertato che Cota ha messo la mia massima fiducia per quello che ha fatto, fino a prova contraria. Ma lei ha mutande verdi? Io preferisco lo scuro, se devo essere onesto. No, perché ma questa è questa cosa grave, è questa della scelta delle mutande del colore. Se effettivamente le mutande verdi non è il massimo. Cioè, come fai a... Ma guardi, il massimo dell'eleganza era il professor Monti, ci hanno raccontato per anni, e abbiamo visto come magari non ha le mutande verdi, però ci ha lasciato con le mutande verdi. Quindi non starei a discutere sui gusti cromatici del singolo. Questa cosa di Bossi, questa roba di Bossi, cioè del figlio che racconta che al padre diceva che faceva gli esami a New York, non è un po' penosa? Sì. Io non sono arrivato alla laurea, mi mancavano 5 esami a storia. Però ma non raccontavi mia mamma che... e al mio papà non sono andato a raccontare che mi stavo laureando. Non è stata un po' la rovina? Ovviamente spero per lei. Aver candidato il figlio di Bossi è stato un errore madornale. No, ma in generale questa vicenda dei Bossi vi ha portato a un discredito pazzesco. Cioè ormai la Lega... Vedete voi. I giornali che già parlano poco e male della Lega, quando ne devono parlare, parlano di Belsito, dei diamanti di Renzo Bossi, quindi che ci abbia aiutato mi sembra difficile. No, d'accordo, però per lei c'è una montagna da scalare, o no? Guarda, io sono contento. Io ieri ero a Roma e mi hanno fermato una decina di persone a Roma, quindi non in Val Brembana. Strano che non l'abbiano picchiata. No, anzi, tutt'altro. Vigili, perfino un carabiniere, dicendo: mi raccomando, tenete duro a Roma. Ma il Parlamento europeo, che bisogna fare col Parlamento europeo? Perché lei si candida, ma nella vostra logica è uno spreco pazzesco, non va cancellato? No, cancellato no, però che abbia 3 sedie è demenziale. Basterebbe una sede, l'abbiamo chiesto e votato 3 volte quasi all'unanimità, però nei trattati, perché dico che l'Europa l'ha ricostruita? Perché nei trattati europei il Parlamento europeo deve avere... Comunque Lerner dice che lei è diventato segretario con 10.000 voti, cioè si è ristretta la Padania, dice Lerner. Ma noi abbiamo fatto votare i militanti, non chiunque passava per strada, con tutto rispetto del primario del PD. Poi di quello che dice Gad Lerner ovviamente non me ne può fottere di meno, perché l'ultima delle mie preoccupazioni è il signor Gad Lerner. Giornale Radio. Fa male solo a chi non sa ridere, e la zanzara. Sono Martina, ho 24 anni e come voi sono una disoccupata. Io parlo perché sono stufa, perché non ho più una dignità, perché non so come aiutare mia madre a pagare le bollette, che arriva a fine mese a piangere, e io voglio aiutare mia madre a fine mese. Non che non sa da dove prendere i soldi o devi fare 250 lavori per pagarti le tasse loro, che sanno solo dire che siamo dei delinquenti. Delinquenti sono loro, raga, giratevi perché sono di là, sono proprio dietro a noi. Parti piatto forte, siamo noi. Adesso prende una pensione di 450 euro, come cazzo vivo io, eh? Se mi facevano entrare in comune ieri, uscivo morta da lì dentro, perché a me non mi è rimasto niente. Sono da sola, senza una casa, con una misera pensione che ho lavorato, però non mi basta. Io a mangiare i miei bidoni non ci vado. Allora, queste sono le voci, alcune folli, altre meno, caro Parenzo, no? Poi abbiamo, limitiamoci semplicemente a riportare quello che ha detto uno dei portavoce, il quale dice che l'Italia è schiava delle banche degli ebrei e degli ebrei ricchi. Dico solo questo, titoli del TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Via libera del governo al decreto che abolisce i finanziamenti pubblici ai partiti. Letta, erano priorità, la promessa è stata mantenuta. Nuovo sistema parte nel 2014 e regime nel 2017. I partiti saranno finanziati con il 2 per 1000 con donazioni private. Grillo dal governo, soltanto chiacchiere. Via libera al piano Destinazione Italia, taglio alle bollette energetiche, meno tasse sui libri, sconti, RC Auto, Banca Italia, giù il valore delle case. Cooper accetta la proposta di Renzi, sarà presidente del PD, elezione domenica all'assemblea del partito che proclamerà il nuovo segretario. I forconi mercoledì a Roma, ma non ci sarà nessun corteo, il leader Ferro annuncia andremo avanti a oltranza, pochi presidi rimasti. Mai così vicini all'arresto del boss Matteo Messina Denaro, 30 in manette, tra loro la sorella Patrizia che teneva i contatti con il super latitante. Un'ondata di gelo ha investito il Medio Oriente, il Cairo, Gerusalemme imbiancate, neve e gelo aggravano le condizioni dei rifugiati siriani nei campi del Libano. Danzano come zanzare, queste ombre sulla strada. E cadono le ceneri della città. Ma che piacere sentirvi, ma voi siete dei fenomeni. Allora Ferro, uno dei leader dei forconi, dice: ci ritiriamo se ci date le televisioni. Bah, è uno dei più moderati peraltro, Ferro. Noi sbaracchiamo dalle strade, noi sbaracchiamo domani dalle strade. Noi domani sbaracchiamo dalle strade. Però ci dovete dare le televisioni, così alla pari delle stesse ore che avete voi. Ah, dice ai politici, siccome voi state sempre in televisione, abbiamo diritto di parlare anche noi. Vabbè, questo è poco male, questo vabbè. Non si sente. Ma come non si sente? Ma se parli piano non si sente, no? Ma andiamo. Hanno detto i tecnici che si sentiva benissimo. Ho capito, se parli però, se parli, a parte che non è vero, mi dicono dall'altra parte. Non hanno detto nulla. Oh, Sandra Murri, che è una giornalista del Fatto Quotidiano, dice che la rivoluzione è una parola violenta, io non la uso. Prima sentiamo, poi aggiungiamo. Io non uso mai parole violente e sono contro la violenza, così come sono inorridita stamane nel sentire Berlusconi che ha detto alla radio francese ieri mattina, lo riportavano come detto, se verrò arrestato ci sarà una rivoluzione in questo paese, così come inorridisco quando sento Grillo usare quelle espressioni. Però voglio ricordare ma non faceva parte di un partito che si chiamava Rivoluzione Civile, il signor Ingroia, lei. Esattamente. Nel simbolo c'era scritto. Esattamente. Vabbè. Mia gioventù. Poi, per carità. Siamo qui, 800-24-00-24. TG3 l'abbiamo mandato, sì o no? Sì. L'abbiamo mandato. E con noi ancora Salvini? Eccoci. Segretario della Lega. Lo sa l'ultima di Berlusconi, l'ultima barzelletta di Berlusconi, Salvini? Non l'ho sentito. Allora, l'ultima barzetta di Berlusconi è su Bossi. È su Bossi. Sì. Sapete cosa fa Bossi quando va a letto con la moglie? La Lega. Sì. Lega la moglie, in quel senso là. Lega. Com'è? Vabbè. Le piace? Ne ho sentite di migliori, onestamente. Vabbè, adesso. Non è... Quantomeno non insulta. Va. Di solito sulla Lega piovono solo insulti, razzisti, brutti, cattivi, egoisti. Sapete almeno cosa? È una battuta di spirito. Ma voi avete. Lei in particolare, adesso è il capo della Lega. Chi l'avrebbe mai detto, Chi l'avrebbe mai detto? Nella vita, ma ne sono orgoglioso. Ma lei ci avrebbe mai pensato? Una volta, qualche tempo fa, ci pensava, no, è una cosa pazzesca. Ma non avrei mai pensato neanche di fare il consigliere comunale a Milano quando a 17 il anni. Il capo della Lega. Ma metterà si possono fare tante cose, è una responsabilità enorme. Però ma metterà le felpe, continuerà a mettere le felpe ancora con scritto. E devo cambiare, mi metto il modem. No, che ne so, magari uno diventa segretario della Lega e comincia a mettersi la cravatta. Continuo a prendere il tram, la metropolitana, e a mettere la felpa. Quando ci vuole la cravatta, mi metto la cravatta. Quando ci vuole posso mettermi la felpa, mi metto la felpa. A sua moglie non hai la scorta adesso. Ho la ruota di scorta, no? Anzi, devo mettere le ruote da neve perché c'ho ancora più. Ma perché Bossi aveva la scorta, scusa? Vabbè, avrà ricevuto minacce Bossi. Perché in quanto segretario di partito hai la scorta ora? Non ho nessuna scorta e spero che non mi rifilino nessuna scorta, onestamente, anche se devo dire che purtroppo di minacce non ne mancano. Però. Beh, se vai a Napoli ti serve? Vabbè. No, ma guarda, su Facebook ho tanti estimatori anche da Roma, da Napoli, dal Salento. Senti Sabini, voi pensate di allearvi ancora con Berlusconi? Al momento attuale, se votassimo domani mattina, evidentemente no, perché in due anni sostenendo i governi Monti e Letta... Ma adesso, adesso è contro il governo Letta Berlusconi, cioè. Voi pensate davvero ancora a un'alleanza con Berlusconi, sì o no? Ad oggi non è assolutamente ipotizzabile, poi alle europee si va da soli e quindi il problema non si pone. Vabbè, a te Berlusconi non ti piace, questo è il punto, a te Berlusconi. No, Berlusconi ha costruito questa Europa insieme a Prodi, questa Europa ci ha lasciato appunto in mutande verdi. Detto questo, meglio non evocarle, cambiare idea, meglio non evocarle le mutande verdi. Positivamente sentivo il vostro giornale radio col governo che si esalta. Che è successo? Perché tagliano 20 euro in bolletta. Vabbè, quelle sono tutte cazzate. È lo stesso governo che ha regalato 50 miliardi di euro alle banche tedesche, francesi e spagnole senza chiedere il permesso. Vabbè, ma i tagli delle bollette. No, sai con 50 miliardi di euro quante bollette tagli? Sì, sì. Ma secondo te i banchieri ebrei governano l'Italia? Ma non lo so, sì. Le banche sicuramente sono, ma non so se sono ebrei, non è che quando non mi interessa se sono ebrei, musulmani, valdesi, cristiani o quant'altro. Sicuramente le banche sono uno dei principali problemi. Ma sono in mano agli ebrei secondo te? Ma che ne so, non vado neanche, non sono uno di quelli che va a cercare queste cose, e secondo me chi ragiona in quest'ottica nel 2013 è un tarato. Va bene, grazie, ciao Matteo, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Mario, provincia di Massa. Guardi, che è successo? Sono disperato, sono. Perché? Che fa? Sentire tutta questa gente che chiacchiera, politici, però poi non fanno niente. Noi siamo al limite della sopportazione, sì. Sia come azienda, io sono un insegnante, sono uno di quelli che è rimasto fregato dalla Fornero. Però ho un'azienda agricola, una cooperativa di cui sono presidente. E allora? Ho due figli che hanno due aziende agricole, sì, che si sono lanciati in agricoltura, però sì, siamo disperati. E allora? Ci stanno distruggendo. E lei cosa vuole fare? Il nostro lavoro. Ma guarda, l'unica cosa sarebbe circondare il Parlamento, prenderli tutti, farli fuori tutti e liberarci di quelli. Cioè, farli fuori come, scusi? Proprio fisicamente questa gente qua ormai non ho ancora capito che la gente è all'estremo. Io vedo in giro la gente. Ma in che modo? A parte che è all'estremo, non all'estremo, ma al di là di questo, Mario, ma come farli fuori? Ma guardi, se si può politicamente. Se no? Ma siccome non si può, perché loro non faranno mai una legge elettorale che dia peso al popolo, quindi bisogna pensare alla violenza, però come? Non va bene la violenza sulle strade, perché così si colpiscono solo chi deve andare a lavorare. E invece la violenza come? La violenza, bisogna circondare Roma, circondare il Parlamento. E poi sparare Roma, cioè costringerli alla resa. Questa gente. Ma alla resa come? Sparare? Ma sparare non lo so se bisogna sparare. E che ne so, lei dice farli fuori, lei l'ha detto farli fuori. Magari anche quello, Ma come? Con che con le pistole, con i fucili? Ma guardi, basterebbe proprio anche quei fucili, perché quei fucili, gente basterebbe, certo. non è degna di stare in Parlamento. È gente mafiosa, ci sono dei mafiosi. Ma lei si sta attrezzando o no? Lei si sta attrezzando o no? Da questo punto. Io mi sto attrezzando, sto cercando di attrezzarmi. Cioè in che modo, io scusi? Io penso che tanto arriveremo a. Ma in che modo si sta preparando, scusi, mi spieghi? Ma io cerco di organizzarmi, di svegliare anche i ragazzi a scuola, di dirgli che bisogna svegliare. Ma perché lei che fa a scuola? Io insegno. Ah, lei insegna, fa l'insegnante di cosa? Laboratorio di chimica. Però i ragazzi non hanno più palle. Ma in che scuola, scusi? Non fanno più assemblee. In che scuola? In tre o quattro scuole della provincia di Marco. Come se fosse un operario. Aspetta, no, io voglio... Anche se ho 39 anni di servizio e 60 d'età. Scusi un attimo, ma lei ha un fucile a casa? No, non ho un fucile perché me li hanno fatti vendere perché sono troppo focoso. Me li hanno fatti vendere quelli che ho ereditato da mio padre. Ma allora come sta preparando i giovani? Cioè li sta insegnando a sparare? No, sparare ai giovani no, però ai giovani gli dico di svegliarsi. Di svegliarsi. Cioè di cercare di fare l'assemblea, di discutere. E di circondare Roma. E di circondare Roma. I giovani ormai li hanno ridotti ad avere telefonino con due giochini e la Gazzetta dello Sport e con quello siamo. Scusi, ma questo laboratorio di chimica è una struttura dello Stato o privata? Dove lei va a insegnare? Struttura dello Stato. Dello Stato. Cioè lei è un insegnante? Parenzo, che volevi dire, scusa? No, volevo dire questo, volevo capire un attimo. È un insegnante della scuola pubblica che dice agli studenti di ribellarsi, e fin qua va poco male, per ribellarsi dipende come, però alla radio lascia il numero di telefono e dice soprattutto che bisognerebbe sparare. Beh, io ma guardi, un genitore di quei ragazzi ormai sono arrivato a quel limite lì, perché non si va più avanti, ti ammazzano di tasse, lo sa quanto. Adesso lei mi spiega dove è arrivato, a che limite è arrivato, un attimo solo. Ma perché non smettete di urlare? Sembrate presi, oh, vi state montando la testa, datevi una calmata. Oh, caro direttore, mi ha mandato un SMS questa mattina. Anche a me. Il direttore Fede, dicendo che non ci facciamo sentire, che dobbiamo rimanere amici, ma noi ti abbracciamo fortissimo, so che ci stai ascoltando, caro direttore, ti abbracciamo molto forte, molto, molto forte. Ci saranno novità tra poco per noi, per tutti. Ti abbracciamo fortissimo, caro direttore, siamo sempre qui, amici tuoi per sempre. No, chi è? Che c'è un fresh della miseria. Siamo qui, la Zanzara, 800240024. Con chi eravamo? Con Mario dalla provincia di Massa. Allora, un insegnante di chimica, giusto Mario? Sì. Un insegnante di chimica, il quale è incazzato come una bestia, caro Mario, per usare un eufemismo, diciamo, no? Professor Mario. Professor Mario, scusi, perché lei non... In realtà è un insegnante pubblico, adesso non so se sia in ruolo oppure precario, non lo so. Sì, no, di ruolo, 39 anni di servizio. Lei è quello che meno dovrebbe preoccuparsi, perché tutti gli statali sono quelli che dovrebbero preoccuparsi di meno. Esatto. Quelli esatto. Che ce l'hanno in quel posto sono quelli a partita IVA. Mi preoccupo per i miei figli e per tutti i figli dei miei colleghi e di tutti gli altri. Ma lei cosa dice esattamente ai giovani? Scusi, cosa insegna ai giovani? A prendere le armi, mi pare. No, beh, assolutamente, come no? quello no. Dico di svegliarsi. Di svegliarsi. Di parlare dei problemi. Ma lei dice cercare... che bisogna andare a circondare il Parlamento, scusi. Ma quello, guardi, lo dico in un attimo di disperazione. Ho capito, un attimo di disperazione, però dice che ci vogliono le fucili. Disperazione di cosa? Cioè... Se ci fosse un'invasione a Roma, io sono pronto a partire. Lei è pronto, eh? Ma invasione di chi? Scusi un attimo, ma lei non lo capisco, ma sa sparare lei? No, non sa sparare. Ma scusi. Ma il primo da ammazzare chi è secondo lei? Il primo da far fuori di politico? Il primo, proprio quello che la fa incazzare più? No, non c'è un primo. Beh, come lei l'ha detto però, caro Mario. Non è io, io direi tutti. Tutti. A tappeto. Ma essendo lei professore di chimica, mi pare, no? Sì. Ma allora, come dire, consiglierebbe ai suoi ogni tanto qualche battuta, magari ci scappa su come si costruiscono, che so, degli piccoli ordigni. No, assolutamente. Anzi, sono i ragazzi a dirmi come si fa a fare polvere da sparo, fare certe cose, perché loro lo trovano su internet. E perché le chiedono come si fa la polvere da sparo, scusi? Sì, quello me lo chiedono. E perché io? No, è così, per curiosità, io gli dico che è pericolosa. Sì, e tanto bisogna andare a circondare il Parlamento. Amico mio. Però quello, guardi... Ma non c'è proprio qualcuno in particolare che le sta... È il mio sogno vedere qualcuno che circondi il Parlamento. È il suo sogno, È il suo sogno. È il mio sogno, guardi, perché questa gente sta cercando di buttare a terra l'Italia. Sì. Dobbiamo abbassare tutti i valori delle cose. Sì. Poi dopo quei soldi che hanno portato all'estero rubando. Sì, tutti. E rubandoli a noi... C'è dubbio? Finanziamenti dei partiti e altre cose, loro ritorneranno e si compreranno l'Italia con niente. Sì, ma questa è la politica che sta facendo questa gente. Ma lei dice i politici? Chi? Sì, politici. Politici e non chi? Solo i politici. Ah, beh, certo. Chi c'è poi? E i vari grandi industriali, i grandi finanzieri, grandi... Tutti. Però guardi, in questo momento... Gli ebrei magari, no? Gli ebrei pure? No, io non ce l'ho con gli ebrei, guardi. No, non ce l'ho con nessuno. Però le dico una cosa, in questo momento bisogna aiutare le piccole imprese, sono quelle che danno lavoro, sono quelle che vanno aiutate, vanno cercate di aiutare. Sì. Cioè, vabbè. Perché secondo me... Caro Mario, la ringrazio, ciao. Salvatore da Bari, buonasera Salvatore. Ciao, buonasera, va. Dimmi, buonasera, dai. Allora. Ascolta, ma dà fastidio una cosa. Cosa, dimmi? Quando una persona dice una cosa, tu e quell'altra cicoria che c'è spesso, cicoria. Subito a caricatura. Subito a caricatura. Subito a caricatura. Subito. Subito. Subito. Subito. Allora. Il signore di prima ha detto che non c'ha un lavoro, non c'ha una casa. No, il signore di prima ha detto che c'ha un lavoro e c'ha pure una casa. Ah, chi? Quell'altro prima ancora. Quello prima. Allora, la storia delle sigarette è questa. La storia delle sigarette. Sei mai andato in un centro cara, tu? In un centro? Cara. E che è il centro in cara? Un centro di accoglienza immigrati. Ah, sì, un paio di volte, ma tanti anni fa, tanti anni fa. Ah, allora adesso ti spiego io, eh. Dimmi, spiegami tu. Hanno vestiti. Vestiti. Colazione. Sì. Pranzo. Cena. Sì. Soldi in tasca. Sì. Scheda telefonica. Sì. E sigarette. Vabbè, ma non è, cioè, non è il paradiso terrestre. Tu lo stai dipingendo come il paradiso terrestre. Ma come si fa? Il paradiso terrestre. Ancora meglio. Ancora meglio. Ma che ancora meglio, se dai, tu... su. Lucia, vuoi chiamare la fregola, Lucia? Sì. La mattina li vedi alle 10:30 che si alzano, fanno colazione, scendono giù a Bari, tutti ben vestiti, mi senti? Sì, sì. Tutti ben vestiti, sì. Con i loro smartphone, con i loro iPod, Crucià, non scherzare, veramente. Questi qua hanno trovato non il paradiso, hanno trovato proprio la cosa. Guarda, Salvatore, città. Che alcuni possano approfittare dell'accoglienza per poi farsi i cazzi loro, non c'è dubbio. Tutti. Che quello sia il paradiso terrestre, quello dei centri di accoglienza dei rifugiati. Non è così, dai, su. Adesso l'ultima, sai qual è? Qual è l'ultima? Dimmi tu, amore, dimmi. Dimmelo. Che devono dare le case popolari anche agli extracomunitari. No, quella è una vergogna. Ma dipende se uno è italiano, se uno ha diritto. Ma Madonna, me cucciano se cito. Cucciò, l'italiano sotto un ponte. Non lo so, che cazzo ne so, non lo so. Che ha detto? Non lo so. Se ne ha diritto, asino di un asino che non sei altro. Ah, ha diritto quello, l'italiano sotto un ponte e l'extracomunitario in una casa. Quando io, per farmi una casa, sì, ho lavorato 7 giorni. No. Asino, asino, dice Parenzo. Ha detto, dice Parenzo, asino. Detto da lui un complimento, testa di rapa. Testa ma di rapa. Ma dove siamo, scusami, nel paese delle scimmie o in Italia? Ma pare, ma stai scherzando, stai. L'italiano no, ma stai scherzando tu. Stai scherzando tu. Gli extracomunitari che sono tali, prendono, hanno diritto alla casa quando entrano in una graduatoria, esattamente come gli italiani. Non è che gliela regalano in quanto extracomunitaria, hai capito? No. Forse non ci siamo capiti bene noi, No. Io sono prima italiano, io italiano sono prima di te. Da dove cazzo vieni? Vattene di nuovo. E a noi italiani nel mondo ci hanno fatto dormire nelle baracche, non ci hanno dato la casa. E dove li faresti dormire quelli che arrivano tu? Dove cacchio vogliono, a me non mi interessa, la casa tu non l'hai. Prima gli italiani, quando gli italiani li abbiamo sistemati tutti, sì, quello che resta a voi nessuno cioè, lo nega. Tu dici, dici non bisogna dare la casa agli extracomunitari, anche se sono residenti in Italia, giusto? Assolutamente no. Assolutamente no. Prima gli italiani. Prima gli italiani. Prima gli italiani che hanno lavorati in Italia, che sono italiani, sì, che pagano le tasse in Italia, sì, questi qua stanno diventando i padroni dell'Italia. Sì. E va. I padroni sì. dell'Italia. Capito? Capito, Salvatore? Capito? L'iPod io non ce l'ho. L'iPod? E compratelo, Salvatore, compratelo, no? Senti, Salvatore. Se tu canti piano, canti il mare. Ti piace, eh? Ma a me vuoi dare, dice. Ti piace? A me piace tutto, quello che è giusto. No, ma ti piace sta canzone? No. Sì, è voglia. Mi piace. Tanera, bella bissina. Cantiamo, Salvatore. C'è da cantare. Tu puoi cantare, non io. Lucia, io sto ancora a lavorare, Lucia. Che fai? Che fai di mestiere? Lucia. Salvatore, che fai di mestiere? Sempre io sono il caglionista, che faccio? Ah, beh, mitico. Ah, benissimo, è vero? Siamo al top, siamo al top del lavoro. Ma senti, ma è vera quella storia? È vera quella storia che vi rincorrono i froci? Sì. Che vi rincorrono i gay sulle autostrade? Sì, quello è vero, te lo posso garantire io. È vero, capito Parenzo, abbiamo altre conferme. È il 50% dei miei colleghi, ci va tutto, senza preoccupare. Ci vanno, il 50% dei camionisti? Beh, Salvatore, qui siamo alle notizie vere, le grandi inchieste della Zanzara. Il 50% ci vanno. Cioè il 50% dei camionisti, tu che diamo l'annuncio urbi e torbi ai camionisti della Zanzara. Il 50% secondo Salvatore da Bari, camionista di vecchio corso. Il 50% ci va tranquillamente. Ma vanno che? Vanno a fare le marchette con i cosi, con gli omosessuali? No, che marchette, passano il tempo, passano. Passano il tempo, ma si fanno... di cosa ci parlano? Si fanno pagare o no? Si fanno pagare o no? Ah, penso di sì, penso, penso di sì. E dove si accomodano? Dove si infrattano? Tutta area di sosta. Tutta area di sosta. Beh, ma tu non ci sei mai andato? No, perché io faccio un lavoro che vado via la mattina e torno a casa la sera. Beh, magari perché ti piacciono le donne. Anche per quello. Ma scusa, è possibile, diciamo, che il 50% dei camionisti vanno con gli uomini? Se voglia. Guarda, dici? Che ci sono degli uomini, dei travestiti là, che sono meglio delle fighe. Dici? Non deve andare dell'altro mondo. Sono veramente roba forte, dici? Spettacolare. Roba spettacolare. Capito, Parenzo? No, ho capito. Un personaggio importante. Vai. Vai, sì, che ti ho mandato io, ti ho mandato. Come si chiama questo signore qui? Salvatore da Bari. Il signor Salvatore. Beh. Sì, io, guarda, penso neanche un caffè al bar a distanza di 200 metri. Ma perché tu sei snob? Snob? Molto. Snob il popolo? Snob, no, il popolo? Pare. Tieni a distanza il popolo e ti professi anche di sinistra, cazzo! Ma cosa c'entra? Devo prendere il caffè con una persona così? No, cosa c'entra la sinistra? Ma perché? Qual è il problema? Sei uno che snobba la gente, ma del popolo. Ma hai sentito cosa ha detto? Dice immigrati, gli fa una confusione, gli immigrati, la casa e i trans. E le ma è una roba... Perché dovrei perdere 5 minuti? È arrivato il professore. Se non parlavi tu, crepavi, è vero? Devi fare il professore. Alla fine, saresti quello di sinistra tu, comunque. No, anche se... Ma cosa c'entra di sinistra? Ma lasciamo perdere, allora? Perché tu passeresti un'ora col signore. Ma no, un'ora, passerei 3 giorni con Salvatore da Bari. No, un'ora, 3 giorni. Non ci allarghiamo. Non ci allarghiamo. Sono all'altra sponda io. No, anch'io. Vedi? Da quel punto di vista anch'io, Salvatore. Vedi che anche Salvatore, che è un briciolo ancora di umanità, gli è rimasto, dice con Cruciani 3 giorni. No, col cavolo con Cruciani 3 giorni. Anche lui non vuole, capito? Anche lui. Salvatore, aspetta là, fermo lì. Beh, qui siamo al top, siamo al top. È con noi, vuole smentire tutto, ve lo dico già, vuole smentire tutto quello che è uscito sui giornali, dice che è tutta una buffonata. Andrea Zunino, buonasera. Sì, buonasera, no, non è una buffonata, è una cosa molto seria. No, è una buffonata quella che hanno scritto, quello che ha scritto. Guarda, un attimo solo, Zunino, mi faccia presentare Urbi e Torbi, la sua persona. Ma per carità, Aspetti, portavoce del coordinamento 9 dicembre, fondatore di una cosa che si chiama Respiro Consapevole, che poi ci spiegherà che cos'è. Caro Zunino, oggi lei è praticamente nel mirino, addirittura leggo che un deputato del Partito Democratico, che si chiama Fiano, la vuole denunciare per queste sue frasi che lui dice essere antisemite. Allora specifichiamo, in un'intervista può provvedere, voglio dire, le sedi per difendersi ci sono. Mi faccia dire la frase per cui lei è incriminato. Sì. Intervista a Repubblica. Vogliamo le dimissioni del governo, e fin qui ci siamo. Vogliamo la sovranità dell'Italia. Oggi schiava dei banchieri come i Rothschild. È curioso che 5 o 6 tra i più ricchi del mondo siano ebrei. Ma è una cosa che devo approfondire. Questo lei avrebbe detto. No, non è quello che ho detto io. La giornalista che mi ha contattato, di cui ho capito quali sono le amicizie. Quale amicizia? Cerca di delegittimare una posizione di cittadini che stanno rimostrando una situazione oggettiva, cioè sotto gli occhi di tutti. Bene, non è che noi stiamo dicendo delle cose folli, stiamo dicendo delle cose normalissime, ragionevolissime, che capisce anche un bambino di terza. Quello è da discutere ovviamente, ma la frase lei l'ha detto o no? No, io ho parlato con questa giornalista che mi ha fatto un'intervista telefonica quando mi dice quali sono gli obiettivi della vostra protesta. Abbiamo il secondo governo non eletto, uno in fila l'altro. Direi che i baluardi democratici vengono meno, quindi è una cosa di cui parlare. Poi? Due, abbiamo una legge elettorale che è una schifezza, è stato anche detto in sedi opportune, quindi non lo diciamo solo noi, vorremmo una legge elettorale di vera rappresentanza. Tre, vogliamo ristabilire una sovranità, uno popolare, quindi vedi legge elettorale, l'euro e tutte queste cose qua. E poi una sovranità nazionale e monetaria. Dico, perché cedere queste sovranità. No, ma su questo, Zunino, fino a qua va tutto bene. Siamo arrivati al punto in cui dico cedere il potere alla finanza globalizzata, lei mi dice, questa giornalista. Ma lei lo sa che le 6 famiglie più ricche che controllano la finanza mondiale sono ebree? Io a questa signora ho risposto, testuali parole, guardi che se uno sia ebreo, musulmano o buddista e che sia israelita, turco o afgano, poco conta, qua stiamo parlando di potere e soldi. Mm. La signora ha pensato bene di ignorare la mia risposta e scrivere una risposta precostituita che lei aveva già in mente. Per questa ragione abbiamo diramato No, ma lei cosa vuole, fare? Come la considera questa giornalista? No, aspetta, no, Parenzo, però qui si... No, io sono stupefatto perché tutte le volte che c'è in Italia un movimento di cittadini, quindi non avvezzi a tutti... No, però io lasciamo perdere, no, Zunino, scusa un attimo. Mi fa una domanda, mi dà anche il tempo di rispondere, no? Ma io le do tutto, Zunino, io le do tutto il tempo che vuole. Quando si vuole delegittimare una reale istanza democratica per denigrare e delegittimare un leale avversario democratico, gli si dà regolarmente del fascista e dell'antisemita. Sì. Io ho passato 2 ore al telefono con il coordinamento delle comunità ebraiche di oggi, sì, che mi hanno detto che sono assolutamente sereni, hanno dovuto fare un comunicato, dice ma capiscono che è il solito gioco della politica, dice, cioè? Berlusconi un mese fa ha detto che i suoi figli erano ad Auschwitz e noi siamo sempre chiamati in causa, dice ci dispiace che accadano queste cose, non è ciò che io ho detto alla giornalista. Allora, diciamola una volta per tutte, no, perché questa cosa è una cosa importante, perché tutti oggi si scatenano, tutti oggi si scatenano. Sì, ma è logico, questo è il gioco, no? Delegittimare l'avversario. Allora lei non ha mai detto... Ci sono i Rothschild e ci sono i Rockefeller, però c'è anche JP Morgan, c'è anche altra gente, però, scusi, che poco hanno a che fare con gli ebrei. La frase quindi... è virgolettata, Italia schiava di ricchi ebrei, lei l'ha mai detta, sì o no? Sì signora, io non ho mai detto quella cosa lì. E dunque questa giornalista, io lei non come ho la mai detto, lei mi ripeta la frase, Italia, le dico... Italia schiava di ricchi ebrei. No signore, io non ho mai detto questa cosa. Questa giornalista, siccome pensa che io sono un poveraccio del popolo, mentre invece lei è una quotata giornalista di una testata nazionale, tra me e lei prevalga la sua opinione. Per questa ragione non si rilasciano più interviste che non siano in diretta, in modo che io qui davanti a lei le posso leggere il codice etico, le posso dire come ci siamo mossi. Io non ho mai detto quella frase. E dunque come vuole procedere? Come vuole procedere? Di spiegare la cosa, io ho risposto con grande equilibrio, ho detto guardi che non c'entrano né la nazionalità né la religione, c'entra il potere e il denaro. Se poi questa signora pensa di potermi delegittimare scrivendo delle cose che io non ho detto... Scusi, la frase è curioso che 5 o 6 tra i più ricchi del mondo siano ebrei, lei l'ha detto o no? No signore, io ho risposto a questa donna dicendo guardi che non c'entra la nazionalità, uno può essere turco, afgano, israelita, uno può essere... Cioè, ma questa è una manipolazione ebreo, totale. Musulmano oppure buddista, mi faccia parlare, perché sennò la cosa non passa. No, ma ho capito, uno può avere la religione che vuole, la nazionalità che vuole, se è un uomo ricco comanda nel mondo, punto. E guardi che tanti dei ricconi che comandano non sono né ebrei né cristiani, sono... Dunque, persone ricche e basta. Non ho capito, questa quindi, qua è una manipolazione totale, allora lei dice, una totale manipolazione. Sì signore. E di fronte a questo guardi, lei che fa? Che fa guardi, di fronte a questo? Per fortuna, prima dell'articolo di questa signora, io sono stato intervistato, però io non sono né un promotore, né un fondatore, io sono solo uno che siccome fa delle conferenze in giro e ha la capacità di parlare in italiano in un certo modo, per favore occupa tu della stampa. Io sono passato in diverse interviste sul TG1, sul TG2, sul TG Sky 24, la 7, la Gabbia, eccetera. Tutti i pezzi delle mie interviste sono lì da vedere. Io credo di essere una persona questo non significa moderata, nulla, non un estremista, non sono un fascista, non sono un antisemita, sono stupidaggini e adesso si capisce perché io mi sono un po' informato e so benissimo di chi è amica questa signora. Di chi è amica? Per cui si di chi è amica? Di chi no, amica? Guardi, ecco, vede, io mi sono informato, ho capito perché però scusi, lei non può fare insinuazioni, allora ce lo dica. Non è vero quello che lei ha detto. Ha detto, ha scritto delle cose e è arrivata a farmi un'intervista già con una specie di idea pre ho capito. Un attimo solo, Zunino, che ho la pubblicità, torno subito. Allora, è con noi Andrea Zunino, portavoce del coordinamento 9 dicembre, agricoltore, se non sbaglio. Sì, anche, certo. Anche, perché che altro fa lei, Zunino? Beh, faccio le attività che diceva lei prima nel tempo libero con i seminari di respiro. Vede, c'è una cosa che un attimo solo, un attimo solo, Zunino, io voglio capire se lei querelerà questa giornalista, siccome lei dice che siamo... No, guardi, senta, noi non siamo una struttura organizzata, non siamo... Ma lasci perdere, se uno dice il falso, se secondo lei ha detto il falso, ha riportato il falso, uno... No, ha riportato il falso, ognuno si assume le sue responsabilità, le interviste che io ho rilasciato per il movimento in questi giorni sono lì da vedere... sono una persona di grande equilibrio, ho dei meravigliosi rapporti, per esempio io conosco di persona Rav Laras, con cui abbiamo fatto delle conferenze insieme, in grande accordo. Quindi guardi, quello che mi dispiace profondamente, magari ha registrato tutto la giornalista, magari ha registrato tutto, ma magari avesse, ma non lo tirerà mai fuori, perché guardi, io avevo mia moglie presente alla telefonata, la quale potrebbe anche testimoniare. Però è vero che lei ha come idolo, come modello Viktor Orban in Ungheria, il quale è abbastanza antisemita. Anche questo non corrisponde alla verità. Pure questo, qui c'è della gente, noi siamo qua in piazza Torino, c'è meno tre, siamo qua fermi da stamattina a manifestare perché c'è della gente che non c'ha da mangiare. D'accordo. E stiamo qua a parlare delle minchiate che scrive una signora su un giornale. Viktor Orban è un presidente di una nazione che si chiama Ungheria, che ha riscritto la Costituzione, lavora con una moneta non a debito, quindi in contrasto con questo dominio finanziario globalizzato. Dopo due anni di questa cosa sta aumentando le pensioni ai cittadini, ma io non ho fatto solo l'esempio dell'Ungheria, ho parlato anche dell'Ecuador, ho parlato anche dell'Islanda, del Brasile, che stanno facendo cose simili. Sappiamo benissimo che ci sono altri paesi europei che stanno valutando con molta attenzione se entrare o no in Europa, perché qualcuno sta capendo che questo è una grandissima fregatura. Allora, qui c'è un popolo italiano che versa, la fascia bassa, che versa in condizioni disperate. Parenzo, movimento ma è tre giorni che ne parliamo. Adesso, siccome lei è stato intervistato da questa giornalista di Repubblica ha detto delle cose, cerchiamo di capire se sono vere o non sono vere. Parenzo. Giunino, qui, al di là di tutto, lei, da come ci sta dicendo, da questa intervista avrebbe ricevuto un danno, teoricamente. Ma sì, ma guardi, perché ora il danno tutti pensano che lei sia un razzista, il danno fascista. È la delegittimazione che si cerca di dare a una protesta che invece ha dei motivi fondati. Però scusi un attimo, al TG1 delle 13.30 mi riferisco, no? Lei ha fatto un'intervista al TG1 oggi? Sì. Oggi no. Al TG1 oggi no. TG1 no, adesso verifichiamo. Alle 13.30 avranno passato magari del materiale registrato. Io oggi alle 13.30 ero a casa, stavo per montare macchina. Hanno fatto qualcosa di registrato in cui mi dicono che lei parla di banchieri ebrei. Ma no, i banchieri, allora, le banche non sono ebree. No, le ho capito, ma lei parla di banchieri ebrei come colpevoli della crisi? No, signore. Non ne ha mai parlato. No. Senta, i banchieri non sono ebrei o musulmani o buddisti, e non sono israeliti o turchi o afghani. Come mai lei ha aderito all'Islam? Come mai è diventato? Mi scusi, però. Per gentilezza, io non sono abituato, no? No, ma infatti la domanda mi lascia rispondere. No, non è la nazionalità o la religione. Ma lei l'ha già detto, l'abbiamo capito. Che fa la differenza, ma l'abbiamo capito, lei sostiene che non è importante le banche di chi siano. E non l'ho neanche detto alla signora. Benissimo. Per cui vorrei finirla questa querela con la signora scriva quello ma che ma perché non la querela allora? Perché non la porta in tribunale? Perché per portare una persona in tribunale e levarsi una soddisfazione bisogna avere in tasca migliaia di euro che magari io dedico alla mia famiglia. Per cui se la signora vuole delegittimare me, io ci faccio una risata, lei eventualmente risponderà della sua coscienza, io non ho questo tipo di problema. Quello che non vorrei che accadesse è un tentativo di delegittimare una protesta popolare che non è né fascista né antisemita. Ma perché lei ha aderito all'Islam? Perché ha aderito all'Islam lei? Guardi, io qui entriamo nella vita privata. Beh, importante però. Io sono un monaco, vede? Io non partecipo a questa attività perché sono un politicante o perché sono di qualche movimento. Io non ho mai avuto la tessera di un partito, non ho mai avuto la tessera di un sindacato. Allora? Io faccio un lavoro di ricerca spirituale, sono un sufi, cioè un membro di una confraternita sufi ufficiale da casa madre e sufismo, a Istanbul, in Turchia, signore, e per me è un percorso spirituale. Ma lei è diventato musulmano? Si è convertito? Non si può essere sufi senza essere musulmano. Che ne pensa dello Stato di Israele? Ma lo Stato di Israele, secondo me, io ho parecchi amici in Israele, parecchi amici con cui condivido parecchie cose. Sì. Lo Stato di Israele è una situazione molto difficile per le popolazioni che... Ma è legittimo, secondo lei? È legittimo oppure va cancellato lo Stato di Israele? No, guardi, non si cancella niente. Vede, se le persone incominciano a capire che se lei va a parlare con i palestinesi, io ho degli amici musicisti in Israele che suonano... Ma è una domanda, Sì, l'ho capito, lei fa il suo mestiere, però lei sta cavalcando. Io non sto cavalcando, le ho fatto smentire una cosa. Che cavalcando, Zulino? Non sto cavalcando nulla. Ho degli amici in Israele che sono sia palestinesi che israeliti, israeliani, li chiami come vuole, che suonano musica insieme, che vanno d'amore d'accordo. Lì c'è un litigio che non è solo locale, non è solo il governo di Israele, c'è una cosa che riguarda il mondo intero. Quindi la pacificazione dei popoli non è possibile. Ma lo Stato di Israele che interessa la guerra. Lo Stato di Israele è illegittimo. Lo Stato di Israele è illegittimo, illegale, sì o no? Ma guardi, non sono io che lo posso dire. No, secondo lei? Ma secondo me esiste, cioè è rappresentato all'ONU, alle Nazioni Unite, quindi è uno Stato che esiste. Mm. Poi è uno Stato che deve guardare se sta facendo il bene della sua cittadinanza oppure Parenzo? No, questo è un altro paio. No, io voglio dirgli adesso, non mi addentro in questa roba qui perché si scatenano delle voragini pazzesche. Appunto, secondo me. Esatto. Gli dico semplicemente però che se per caso la giornalista avesse registrato... Ma lui dice magari, cioè avesse... Lui magari, ha già risposto, ha detto magari. Altri, non so se è in grado di falsificare anche quelli. C'era mia moglie presente alla telefonata, ha sentito che... Però detto, scusi, quali sono le amicizie di questa giornalista? Perché lei non può buttare giù le cose e poi lasciarle lì, perché appunto. Sennò... quali sono? Lei ha scoperto che ha delle amicizie, quali? Beh, avrà degli amici, no? No, dai, Zunino, però adesso no, non fare lo stesso gioco. Lei ha detto, ho scoperto oggi quali sono le sue amicizie. Adesso, siccome lei... Vabbè, io cerco le mie informazioni, finché non ho le prove certe sto zitto, perché visto come si è comportata mi conviene parlare quando ho delle prove... Ma quali sarebbero queste amicizie? Le amicizie di questa giornalista, Vera Schiavazzi di ma Repubblica? No, ma perché c'è stata una situazione con un'altra persona e poi, guarda caso, due giorni dopo arriva una specie di ripercussione, no? Guardate, la mia posizione non è importante, di me si può dire... Com'è il respiro consapevole, Giunino? Il respiro consapevole, come me lo insegni anche a me che sono un corridore, il respiro consapevole, come si fa a fare un bel respiro di quelli... Ragazzi, il respiro è una bella cosa, io guardi, non so come ti chiami... Giuseppe. Io faccio, adesso ho domenica... Portavoce del Movimento 9 dicembre. Un seminario, questa cosa funziona molto bene, però non siamo qui per parlare del respiro. No, ragazzi, però è interessante questa cosa, è interessante. Va bene, c'è un sito dove l'hai visto tu, la gente che è interessata, digita www.respiroconsapevole... Ma può servire alla politica? Può servire ai politici? Ma non c'entra un fico secco la politica. E che ne so, ma c'entra tutto magari, c'entra tutto. No, non c'entra tutto, guarda, io sono una persona che... Per 14 anni si è rifiutata di votare perché se devo scegliere tra... E chi hai votato adesso? A queste elezioni chi hai votato, le ultime? Non ho votato. Grillo come lo consideri? Ma Grillo faccia il suo percorso. Ragazzi, io quello che vorrei dire è che io sono uno che... Guarda, no, però dire scusa, che mi rispondo, no, ma io non ti sto dicendo nulla, io non ti ho attaccato, non ho fatto nulla. No, non dico tu, dico gli altri. A me quello che preme è io ho messo a disposizione la mia umile capacità... Perché c'è una popolazione che ha bisogno di parlare. Ma questi politici vanno cacciati o no? Spiegamelo. Chi? I politici? Vabbè, insomma, quello che stiamo vedendo oggi è che tutta la gente che è scesa in piazza dal 9 in poi... Da chi vanno sostituiti? Da chi vanno sostituiti? Tanti. No, hanno, tutti questi cittadini hanno un completo, totale disamoramento per i sindacati e per i partiti politici, perché la sensazione diffusa è comune, poi si può discutere. Ma una volta che cade il governo, che succede? Sì, però se tu mi incalzi con le domande io non riesco mai a finire un discorso. Ma no, ma allora, il discorso... Ma allora è un vuoto, capito? Ma no, dai. Allora, quello che io vedo qui sulle piazze è che la gente non crede più che sindacati, partiti, sigle, eccetera, veramente abbiano a cuore la gente. E come si fa senza partiti? E poi fanno comitati d'affari e si spendono la delega per gli interessi personali. Vabbè. Questo è il problema. E come si fa senza questa partiti? È la novità di questi giorni. Senza partiti, e come si fa? Infastidisce il sistema. Come? Senza partiti, come si fa? No, non si può stare senza partiti, è evidente, noi abbiamo una Costituzione che prevede un sistema bicamerale, cioè Camera e Senato, che siano quelle che hanno il potere ovviamente di fare le leggi, legislativo, e quindi è chiaro che bisogna ordinare lo Stato attraverso le leggi che abbiamo. Abbiamo scoperto uno Zunino, rispetto all'intervista di Repubblica, uno Zunino pacifista, no Parenzo? Mi sembra una persona... Ma no, io sono uno tranquillo, cioè ragazzi qua c'è della però gente bisogna, che bisogna risolvere bisogna questa cosa, perché ti vogliono denunciare, Zunino, ti vogliono denunciare per antisemitismo. Mi difenderò. E allora prenditela con quella giornalista lì, non lasciare le cose così. Se è vero che non l'hai detto, se hai le prove, se lei non ha una prova... ribellati a questa cosa, a questa mala informazione, a questa disinformazione. Io ho già fatto delle smentite, ho già fatto delle interviste, lo sto dichiarando a voi. Poi io non ho voglia di litigare con qualcuno. Non, la questione qui non è litigare con la giornalista di Repubblica. La questione qui è capire che cosa sta accadendo. Vabbè, Italia, ma quello lo sappiamo, e è tre giorni. Non legittimare questa cosa con delle sciocchezze. Comunque ti piace genere. L'Ungheria di Orban, che è un po' antisemita? No, no, non tirare conclusioni. Io alla giornalista ho fatto riferimento ad altri stati e ne ho citati almeno sei che si stanno sganciando dalla e tu dici che non sono stati dei paesi liberi e non sono ho capito non sono stati antisemiti non sono stati antisemiti ho capito va bene grazie ciao no, Zunino ma per quali stati antisemiti ma perché ti pare che l'Ecuador sia uno stato no antisemita, appunto no? Gli altri che hai citato ho detto che non hanno riportato non sono contro io ho parlato di Islanda della rivoluzione silenziosa di Islanda pochi sanno qualcosa vabbè, ti hanno voluto far passare come uno antisemita giusto. Vabbè, ma questo è evidente, no? Quando vuoi delegittimare un interlocutore, gli dai del fascista e dell'antisemita. È un gioco vecchio come il mondo. Lasciate che faccia, è una sciocca qualunque. Una sciocca qualunque. Distrarre... Sì, questo serve ma amica di chi? Amica di chi? Amica di chi? Ma amica degli amici suoi. Ragazzi, io voglio che voi diate un pelino di spazio, di attenzione al fatto che c'è della ma gente. Ma è tre giorni che ne parliamo, Giulino, è tre giorni. Perché non è in grado di arrivare a fine mese. È tre giorni che ne parliamo, ci sono anche persone che vogliono sparare contro bene, i politici. Bene, allora, ci sono persone che vogliono sparare contro i politici che citiamo ogni giorno. No, no, questo non si fa. Allora, ho guarda, capito, diglielo allora, diglielo a quello che sono in piazza, diglielo. Posso dirti un segreto? Se tu mi fai arrivare dalla tua segreteria una mail, io ti mando un documento che si chiama codice etico. No, ma l'ho letto. Certo che esisteva il movimento 9 dicembre, siccome secondo me l'uomo è meglio di quello a cui si è ridotto e viene da quel mio percorso che dicevamo prima, ho deciso di partecipare a questa iniziativa perché è apolitica, asindacale ed è un movimento del popolo. E quando ho visto come si muovevano le cose ho detto ragazzi serve che ci scriviamo un codice etico. Vabbè. Ci siamo messi lì, l'ho abbozzato, è piaciuto, l'ha scritto Torino, o meglio nessuna violenza, però ci sono altri. D'accordo. Aspetta, aspetta un secondo. Questo codice etico è stato proposto al Comitato Nazionale. Vabbè, abbiamo capito, però noi queste cose non ci interessa. È diventato uno standard nel codice etico, io te lo mando, tu te lo leggi, sicuro. Nel codice etico ci sono scritte delle cose molto serie, vabbè. Che per quanto mi riguarda sono una verità, quindi tutto il movimento 9 dicembre che ha aderito a quel codice e quella parte di cittadini che hanno manifestato anche qui a Torino in pace, in tranquillità, vabbè. Non violenti, la Giulio, grande maggioranza, quattro facinorosi, fra l'altro alcuni abbiamo saputo anche pagati, hanno creato il disastro per delegittimare la protesta. Va bene, ciao, grazie. Questo non va bene. Ciao Zunino, grazie, ciao. Oh ragazzi, questo Zunino smentisce tutto. Parenzo, tu ci credi o no? Ma guarda, bisogna dargli fiducia, fiducia. Che devi fa? O questa veramente si è inventata tutto? Io spero che lui abbia le prove però. Beh, le prove non ce le può avere, è chiaro che può avere dei testimoni, delle persone. Beh, la moglie non è certamente un testimone imparziale, però il problema è se questa c'ha la registrazione, altrimenti. Ma io mi auguro che la collega abbia. Aspetta un attimo, chi c'è? No, nessuno. Gino da Verona. Gino, dimmi. Io sono Luigino. Luigino, bene, Luigino. Ok. Allora? Da Verona. Volevo dirti una cosa. Dimmi cara. Ma sei sobrio? Se sono sobrio. Sì, no, perché ti sentivo un po' disturbato. Sembra. Ti sentivo un po' disturbato. No, ma probabilmente sono in uno scantinato. Un attimo, Gino. Chi è? Tonon? Sì. Ma che cazzo fai, Tonon? Amico mio, stavi ascoltando la zanzara in taxi, me l'hanno riferito e t'ho chiamato. Certo, c'era Luigino. Luigino aveva avuto un po' di grappa. Luigino da Pordenitas si è fatto un bel grappin te sniapa. Oramai si stanno facendo la sniapa i nostri amici dei forconi. Senti, fai abbassare la radio al tassista un secondo, va, tanto sente te. Abbassi che sennò Cruciani si incazza. No, vabbè, no, per carità, io amo i tassisti, Si irrita quel tanto, è l'altro, il nano che si incazza. Ma veramente sei con i forconi? Perché Parenzo, no, la notizia. Allora, sono stato all'inizio con i forconi. Parenzo con i forconi, Tonon. Allora, io sono stato. Niente, non reagisce stasera, Parenzo. No, ma scusa, Tonon. Ricordavano un po' quelle grandi manifestazioni degli autotrasportatori della Francia dove si diceva che i francesi erano duri e puri. Sì. Dopodiché, tra un'intervista e l'altra, un servizio e l'altro, tutti a casa, tutti a casa. Ma quando il giornalista diceva chi a casa, tutti, tutti, ecco, a questo punto non mi è più andato bene. Le bombe carte, le bombe carta, carta dei nostri studenti, studenti, è bene che studino, che cerchino di laurearsi, signor Tonon. E poi... Ecco. Hai già bevuto? Bombe... Hai bevuto stasera, no? No, io ho fumato, fumo come al solito, anche in taxi. Anche in taxi? Anche in taxi, perché ho dei taxisti meravigliosi. Passami, che me lo passami il tassista un attimo, no, no, un attimo, non te posso passare il tassista, un attimo. Come no? Passami il tassista, mancava, subito. Adesso aspetta che ti passo il tassista, ma non mi sai dire. Ma hai detto già, ma che devi concludere? Mica sei che fa la dichiarazione, fai, Tron, che c'è la dichiarazione, non mi fai concludere, chi sei? Non mi fai concludere. La cosa pazzesca. Un ascoltatore, un cittadino. Un cittadino, sì, un cittadino. Allora? Un cittadino che dice che i forconi non sanno più da che parte andare. Allora, un po' va bene, ma adesso basta. Ma adesso troppo basta. È bello quando dura poco. Capito, Parenzo? Ma non ho capito, Tonon, intanto io veramente... Di cosa campa? Tutto il giorno? Di cosa campa, Tonon, vuoi dire? Che cazzo fa? Tonon campa del miracolo. Ma di cosa campi, Tonon? Non ho capito. No, io campo del miracolo. Ma che vuol dire del miracolo? Da dove li prendi i quattrini? Che mi chiama a dire quattro birlate, prendo soldi, finché dura fa verdura. Da noi non prendi un euro, da noi non prendi un euro, diciamolo subito. Ma no, il piacere mi darei io 5 o 6 euro per intervenire. Ma chi è che ti chiama ancora e ti paga? Scusa, Tonon, io vorrei capire. Tutti, chi è? Tutti. Parenzo, siamo al top qui. No, ma voglio dire, meraviglioso. Ma adesso stai scorazzando per Roma? No, è a Milano. Parenzo, dove tu hai iniziato, a Tele Lombardia. Capito, sta andando a Tele Lombardia. Quanto ti danno a Tele Lombardia? 30 euro? Quanto ti danno? No, è il taxi. Ah, solo il taxi? Qualche solo volta. Taxi. Ah, cosa pazzesca. Però è il piacere dell'egocentrismo, capisci? Vabbè, ancora sei malato. Mi dicono che una sera ci hai provato con uno dei miei assistenti. Gli hai messo la lingua in bocca. Volevi mettere la lingua in bocca a uno dei miei assistenti? Ho messo la lingua in bocca a uno dei tuoi assistenti. Hai provato, così ho mi riferiscono. Ho provato a mettere la lingua in bocca a uno dei tuoi assistenti. Sì, Conte, sì. Nome che lo quereliamo immediatamente. Vabbè, un po' i maschi ti piacciono, Tonon. Lascia perdere, ritorniamo alla Barilla. Che vuoi fare, Cruciani? Il solito casino? Ciao, caro. Cruciani. Parenzo, di qualcosa a Tonon, ti prego. No, ma Tonon, capisci? Il Tonon dal taxi, io prendo soldi parlando in televisione e sto con i forconi. Ma io fossi un forcone... Ma andrei all'inseguimento di questo taxi immediatamente per fargli due o tre domandine al signor Tonon quando esce. In vero che si dice affari da battere. Salvatore, conosci Tonon? Sì, lo conosco. Lo conosci, Quello vive vendendo tappeti, batterie da cucina, poltrone. È un lavoro. Lo segui ogni tanto? Sì. Lo segui ogni tanto? Certamente, perché? Non è un lavoro, cos'è? E che ne so? Aspetta, c'è il piave mormorò, non passa lo straniero, pare. Ancora con questi stranieri, Salvatore, ancora con questi stranieri. Non ci passa lo straniero. Ma tu cosa faresti con questi extracomunitari, Salvatore? No. Quelli che arrivano con i barconi, che faresti con quelli che arrivano con i barconi? Sono assai, niente. Sono tanti, faccio la traduzione. Non li fare neanche partire, Cruciani. Manco partire, come? Andrei sulla loro casa, va, alle loro acque, là, bloccati, tutti, via, indietro. Tutti indietro. Ma come fai a bloccarli, scusa? E se quelli arrivano, che fai, una volta che arrivano? No, non devono partire proprio. Vabbè, ma metti che partono, qua. Metti che partono e arrivano, che fai una volta arrivati? Non ci parti, se fai come dico io, non ci parti. Non ci parti. Chiamiamo Salvatore da Bari per risolvere le questioni dell'immigrazione. Allora, tu faresti meglio del ministro dell'interno? La risolvo io, te la risolvo. Risolviamo. Te la risolvo io, te la risolvo. Ciao, amore. In Italia, quando si vuole, si fa, ricordatelo. Quando si vuole, l'Italia muove le montagne. Ciao, amore. Ciao, ciao, Salvatore. Ciao, tesoro. Ciao. Well, now, little mosquito. Gino, Ginetto, dimmi, Ginetto. Gino. Ginetto. Quello che stava sì, quello di prima, sì, Gino, scusami se ti ho chiamato Ginetto, Gino, dimmi. No, io sono Luigino da Verona. Che vuoi dire, Luigino? Ecco. Okay. Allora, sta attento, Cruciani. Dimmi, caro. No. Parenzo, che dobbiamo fare qua? No, ma che non capisco questo qui con Il grappino è andato, eh? Il grappino, no, è andato, che pronto? Grappino, che cazzo di grappino, ma state scherzando o no? Ma dici una parola ogni 40 minuti. Scusa, questa è la radio, non è che stiamo a Radio Maria. No, sta fermo un attimo. Non è Radio Maria questa? No, scusa. Vabbè, carbura con un altro cicchettino, dai. Amico mio, non è Radio Maria questa. Ho capito che non è Radio Maria. Se ho chiamato voi, non ho chiamato Radio Maria. Anche perché Radio Maria non la può chiamare. Io non vedo grande lucidità, è semplicissima, francamente. Non si può fare. Sì. Io la radio l'ho spenta e non so come mai ho questo ritorno. Vabbè, ma che ci vuole secondo te per risolvere la questione? Non c'entra niente. Ascolta. Dimmi. Ascolta me. Ascolta. Sì. Nel 1761, sì, se non sbaglio, sì, sono andati là, sì, hanno messo una ghigliottina, e hanno tagliati tutti. Oh, no, uno era un altro anno. Questa comunque è una cosa semplicissima. Non bisogna fermare le strade, le autostrade. Si va a Roma, sì, si mette la ghigliottina in piazza, sì, e si mettono dentro la ghigliottina. Punto a capo. Oh, Luigino Galantini. Luigino, come, scusi? Galantini. Capito, Parenzo? Abbiamo la soluzione a tutto. Sì, mi sembra. Questa una cosa qua, così, qua si chiude la faccenda. Si chiude tutto. Punto. Con la ghigliottina si chiude tutta la faccenda. Sì, perché le rivoluzioni non si risolvono semplicemente dicendo questo, facciamo così, questo. Via! Via! Tagliamo la testa, via, via. Insomma, tagliamo la testa in piazza. Io sono un restauratore, un falegname. Sì. Quando io ho un pezzo di legno che non mi piace, sì, accendo la sega a nastro, sì, e taglio e tiro via il pezzo che non mi piace. Punto. E taglio, capito? E taglio. E qui si risolve. No. Cioè, tu come faresti, Gino, concretamente? Cioè, in piazza Montecitorio, per esempio, metteresti, sì, un bel patibolo, giusto? Sì, sì, sì, ma lo metterei, ma e poi? E poi? E poi li prendo uno a uno, uno, hanno fatto con Luigi XVI. Sì, certo. E sua moglie e tutti quanti. E tutti gli altri, sì. E anche probabilmente c'è andato dentro qualcuno che non c'entrava. Beh, niente. Tanto, che comunque sì, era nel seguito. Certo. Era nel seguito. Non c'è dubbio. E li hanno messi lì. E li hanno... Zacchete! Via. Queste sono rivoluzioni. Tutte le altre sono puttanate. Parenzo? Faccio appello. Trovare una soluzione, come dire, non si può neanche mettersi a discutere con questo qui che vuole montare la ghigliottina. Però ha le idee chiare, ecco, è molto lucido. Mi Tonon, faccio appello a te, Tonon. Non c'è più, Tonon, se n'è andato. Che ha fatto? Se n'è andato. Vabbè, allora, Gino, io voglio capire, ma perché? Hai voglia che se n'è andato. Parenzo, se vuoi, sì, mi metto anche te dentro, ma insomma, non cambia niente, ma. A me non mi interessa. Cioè, dentro dove? Vuoi ghigliottinare? Vuoi ghigliottinare anche Parenzo? Una persona simpatica. Sì. Fra l'altro. Ma non ho capito. Comunque. Vuoi ghigliottinare anche Parenzo? No. Ma è anche simpatico. Ma se si vuole risolvere un problema. Si taglia. Ve lo garantisco io. Sì. Se io ho un pezzo di legno. Aridai, e sì, lo devo. Lo taglio e via, e allora è definitivo, se no non si può. Com'è, scusi, non ho capito bene, è definitivo. Abbiamo fatto, abbiamo quegli altri, non si può, bisogna dare un taglio drastico. Non ci sono forconi. Io l'altro giorno ci ho messo 2 ore e mezza per andare a Brescia, da Verona a Brescia. In 40 minuti ci vado, 2 ore e mezza. E? Mi dispiaceva per quelli che erano lì, insomma, i forconi, eccetera. Sì. Ma io non ce l'avevo con i forconi. Io vado a Roma, sì, e li tiro giù tutti e li metto dentro nella ghigliottina tutti quanti. Fine. Questa è la realtà. Luigino Galantini. Ripeto, Luigino Galantini. Volete, vi dico il nome esatto. No, dove, ma anche l'indirizzo. Anche l'indirizzo, sì. Luigino Galantini, sì. Poi? Cosa volete che vi dica? L'indirizzo. Questa è la realtà. L'indirizzo. No, non ce ne sono altre realtà. L'indirizzo, dove è abita? Una sola. Dove bisogna abita? Per cambiare le cose, sì, bisogna dargli un taglio netto, secco. non si può. L'altro giorno, ieri hanno hanno dato la fiducia, ma la fiducia a che cosa? A chi? A cosa? Quando? Cioè, non si può, bisogna chiudere. Luigino Galantini da via Verona. Via Ilasi, via Ilasi, Cellore, Verona. Vogliamo la via Galantini. Dove abita esattamente? La via. Come? La via dove abita? Ah, te lo dico io. Via Fabio Filzi 74. Via Fabio Filzi 74. Esattamente dove è? In provincia di Verona o Verona città? Sì, Ilasi. Ilasi. Se volete venire a prendermi, sono qua, sono qua, sto ancora lavorando in questo momento. Mentre vi ascolto, sono stato 20 minuti al telefono, sì, che mi hanno messo in diretta, sì, e sono qua, sto ancora lavorando, sono qua. Ma sto lavorando, ho 59 anni. Ma sta con la sega? Sto lavorando. Sta pronto con la sega? Fabio Finzi 54, Finzi. Cellore Ilasi. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazza, è la zanzara. Oh, Berlusconi su Craxi, oggi alla presentazione di un libro. Sentite, ovviamente tutte parole molto, molto gentili, mielose si potrebbe dire nei confronti di Craxi. D'altra parte c'era la figlia, poi è noto il rapporto che c'era tra Craxi e Berlusconi, che come sai bene, Parenzo, non era un rapporto, non è stato sempre un rapporto rose e fiori, no? No, io ho letto solo le prime 30 pagine del libro, mi riservo di leggerlo quando sarò in galera e avrò molto tempo a disposizione. Molto tempo a disposizione. Sì, va bene. Quando sarò in galera, finirò di leggere il libro su Craxi. Ma noi ci ricordiamo di questi giorni che cosa? Anche il meraviglioso intervento, la meravigliosa battaglia che c'è stata qui alla Zanzara tra Parenzo e l'ascoltatore che si chiama Vincenzo. Francesco, anzi, non Vincenzo, Francesco, sui Rom, te lo ricordi? Per questo gli vorrei dire a quella specie di, non lo insulto perché non ho parole per insultarlo, a quella specie di essere umano che dice: cosa vuoi che siano questi 160.000 Rom che rubano un orologino? Io ti giuro, credimi, Parenzo, credimi. Io ho detto un'altra cosa. Fallo parlare. Tu devi, sul bene che voglia chi ti occhi, che se io ti vedo, io non è che ti sputo, non è che ti cago in faccia, eccolo, come fanno quei bastardi che tu difendi. Io ti sputo in bocca. No, però scusa, Francesco. Capricciosa la zanzara velenosa, la zanzara. Francesco. 60.000 Cruciani, io non tu sei un grande, Cruciani, lascia stare. Io ce l'ho con quel pezzo di merda. No, Francesco. No, su. Parenzo, pezzo di merda. Ma che c'entra lui? Francesco, svegliati. Svegliati. Svegliati. Tu non puoi dire che ci sono 160.000 Rom che vanno a rubare l'orologino a casa. Pezzo di merda. Io, tu Francesco. Non sei, tu non sai cosa gli fanno alle persone. Ci sono i mal di venti, sono dappertutto. Di fronte alla criminalità non c'è colore, svegliati. Ma non ti cagano a casa, io bastardo. Rispetto per quello che ti è successo, ma non scendo in quella polemica dove mi stai portando. Sei, i criminali non hanno etnia né colore. I criminali non hanno colore, hai capito? No, se no io dovrei dire che tutti i calabresi sono coglioni come te, aggressivi come te, ma non lo dico. Oh, la cosa mi ha ricordato questa vicenda, Parenzo, è dolorosa, drammatica per i modi in cui c'è stato questo scontro, lo dico sul serio, tra una persona che ha subito un furto in casa e noi che difendevamo il fatto che non è che tutti sono ladri, non è che tutti sono ladri, sia io che te, forse tu con toni più accesi, io sono molto più severo nei confronti perché le cifre parlano chiaro, ma lasciamo perdere la questione dei Rom, mi ha ricordato però una cosa simpatica, divertente, che è un film di Thomas Millian. Squadra antifurto, dove accade proprio questo. Esattamente, un film con bombolo, un film eccezionale. Abbiamo preso una toppata. Ad appare, a chi te l'ha detto che qui c'era da via B? Quello che c'è dello st'informazione è proprio uno stronzo. Qui si rimediamo 200 milioni, siamo fortunati. Era meglio che me ne andavo al mare. Almeno mi avevo il sole e mi facevo qualche cabina. Stipide una mignotta, se portano tutti in Svizzera, se portano. Ma come si fa a lavorare? Dovevamo andare in Svizzera pure noi. Ma io mi domando e dico che ce lo metteranno a fare l'allarme. Ma fa una rabbia! È inutile che te incazzi, da pre. Fai due fatiche. Lasciagli un ricordino. Non mi scappa. E mumma faccio io sta cagata, li mortacci loro. E quando ha visto questo sfacelo mia moglie è svenuta. Beh, ci credo. E poi vede, maresciallo, ancora non si è ripresa. E ho portato via l'oba di valore. Ha fatto male, per questo si sono cazzati. Guardi che casino hanno fatto. E hanno anche defecato. Che hanno fatto? Hanno defecato, là su quella poltrona gialla. Ah, ci hanno cagato. E certe volte cagano per paura e altre per sfregio. Stavolta è per sfregio. Sa perché lo so? No, perché non è show. Sarà capricciosa la zanzara. Beh, spettacolare. Thomas Milian, altro che Rom. Quindi queste cose qui che avvenivano nelle case quando non c'era il furto giusto, quando non trovavano l'area furtiva giusta, ne parlavano già negli anni che erano 80, inizi anni 80, forse fine anni 70. Ma abbiamo con noi un mito, una leggenda. Carlo Giovannelli, il principe, mio caro principe. Come stai? Bene, ciao, come state voi? Beh, molto bene, caro principe. Quanto tempo, principe, quanto tempo? Ci siamo visti? Ci siamo visti l'ultima volta a Milano, una festa spettacolare. A Milano, una festa per Ira Fist, la principessa Ira Fist, che presentava i suoi oggetti di vetro, che poi è corallo, insomma, vabbè, beh, roba. Cristallo di rocca con brillanti, diciamo. Capito, Parezzo, dove sono andato una volta? No, ma dico cristallo di rocca con brillanti, e c'era la Marisella Federici stupenda, e c'era sì. È venuto all'Apo El Can pure, poi, no, non l'ho visto io. Principe, come vede i forconi? Come vede il movimento dei forconi? Non è che si unisce a loro? Io trovo che il movimento dei forconi, loro partono da una base giusta, sì? Perché giustamente la gente giusta, è stufa, il principe, di, sì, di queste tasse eccessive. Anche lei, anche lei è stufo, principe? Beh, sono stufo anch'io, perché con quelle poche cose, cioè un continuo aumentare le tasse, un continuo, sì, e IVA, e ICI, e IMU, non si campa più, non si campa più. Tolgono le IMU, mettono un'altra cosa mascherata, ma che diventa IMU anche quella. Per cui uno che, poveretto, ha lavorato tutta la vita, che si è fatto dubbio una sua piccola come una lei? Casetta in, sì, città, una casetta fuori, sì, o che ha un negozietto, una cosa, si vede così, molti sono obbligati a chiudere. Ma anche lei soffre per questa crisi economica, principe? Beh, sì, ne soffro anch'io, perché quello che ho, quello che avevo mi si è dimezzato, pure le tasse sono aumentate, sì, e voglio dire, ma scusi, lei e non vedo, sì, la luce ancora, anche se l'oroscopo, una maga, l'oroscopo, mi ha detto, sì, una vedrà, maga, aspetti due anni, vedrà poi il sole, ma ancora vedo tutto buio. Capito, Parenzo, vede buio il principe? Eh? Parenzo, il principe, no, vede dico, buio. Caro principe Giovannelli, dici che ti sei dimezzato tutto, dico per forza. Passi le tue giornate tra una festa e l'altra senza fare una beneamata fava tutto il giorno. E pensa cosa, che la vita mondana è una grande droga, che in fondo uno fa la vita mondana e quando è in giro in mezzo alla gente si dimentica, capito, se c'ha dei guai, se c'ha delle tasse, certo, da pagare, se c'ha delle multe, perché vieni come coinvolto da tutta questa gente. Sì. Ciao, come stai, caro? Baci, abbracci, sì, e quello e quell'altro, mille pettegolezzi, e su questo uno dimentica, ma è così. Scusa, è, ma tu di che campi, Giovannelli? Di che campi tu, caro principe? Come campi? Che cos'hai? Delle entrate fisse? Io ho qualche terreno vicino a Roma, sì, c'avevo qualche casetta proprio, appartamentino, che avevo affittato, appartamentino, sì, rimangono molto in gran parte sfitti, sì, c'avevo qualche risparmio e sta finendo anche quello. Quanto c'hai in banca? Qualche milioncino di euro ce l'hai? No, in questo momento no, molto, no. Molto poco. No, non mi dici che sei povero in canna? No, povero in canna no, i poveri, poveretti, sono altri. Ma a Roma dove abiti? Sono più poveri, ecco, quello certo. Sei più, scusa? Che hai detto che sei più vicino ai poveri che ai ricchi? No, ho detto sono più vicino ai poveri che ai ricchi. Ma adesso non esageriamo, dai, principe. Ti però vedo... avendo amici ricchi, io ho una sola fortuna. Qual è? Quella di avere molti amici ricchi, ma sì, ricchi veri, non sì, ricchi fasulli. Allora, avendo gli amici ricchi e frequentando loro, sì, vai con loro, sei sempre invitato, fai la loro vita e la gente pensa che anche tu sia a quel livello, non sanno che il mio è molto diverso, per cui poi senti parlare loro sì, il principe Sola, di aerei, di vacanze stratosferiche, allora dopo un po' di tempo tu ti dimentichi che tu proprio non tutto te lo puoi permettere, pensi sì, che anche tu sei in ma quali, quali risparmi fai tu per esempio, principe? Beh, risparmi quest'anno per esempio le vacanze sono rimasto a Roma, io andavo tutti i weekend fuori e sono molti weekend che rimango a Roma sì, quest'anno le vacanze di Natale sto a Roma e sì, vado fuori solo per Capodanno e dove vai? Che mi è entrato degli amici e vado a Gstaad in Svizzera. Ah, Gstaad è roba da poveri, a Gstaad Svizzera. Beh, Gstaad è roba seria, è roba molto. Sì, siamo al top sì, a Gstaad. Sì, però sono invitato, sono in una casa di amici. Beh, e mi vengono a prendere loro a Ginevra, tutta una cosa. Io negli anni passati roba andavo sobria, a San Bart, andavo a Punta dell'Este, andavo qua. Tutto questo l'ho tagliato perché sono il solo aereo. Ma perché non vai in piazza con i forconi? Scusami. Anche questo. Beh, in piazza con i forconi dirò non ho il coraggio tale di andare in perché se no temerano certo, dici. Ma non lo so perché poi resto simpatico, io c'ho una qualità che non sono bello, non sono però riesco simpatico anche a loro perché io sono uno molto carino con tutti, per no, me questo è vero, questo è vero, riesci pure a sopportare Lucci, riesci pure a sopportare il signor Lucci, riesco anche a sopportare Lucci, quale è con me è aggressivissimo, però è simpatico, è una persona molto intelligente, è molto carino e quindi ma Berlusconi ti piace? E lo fa molto bene. Berlusconi ti piace? Pronto? Principe? Sì. Berlusconi ti piace? Continua a piacerti Berlusconi? Beh, devo dire, Berlusconi mi è simpatico, soprattutto perché è un uomo che si è fatto da solo e io ammiro quelli che si fanno da soli. Dice come l'ha fatto, questo non lo sappiamo, però si è fatto da solo, sì, è costruttore, è imprenditore, una volta, suona, sì, suonava sui battelli, per cui è sicuramente un uomo che ha fatto molte cose in confronto a tanti che non hanno fatto niente. Poi come tutte le persone delle volte esagera un senti, po'. Senti principe, io voglio capire una cosa, ma al di là della tua frequentazione, ma in queste, no Parenzo, in queste feste dove ci sono, alla fine... Sì. Che si fa? Cioè, un po' di sesso c'è o no? Sì. Un po' di? Sesso. No, beh, sì, certo che c'è. C'è il sesso, Queste serate mondane della nobiltà o presunta tale. Che succede? Ma anche... Beh, ma ti spiego. Quando io ero ragazzo, c'erano feste, balli, locali. Tutto questo non c'è più adesso. Non esiste più. Perché i palazzi sono stati affittati. Chi ce li ha ancora? Beato loro. Ma dove vai adesso? Qual è la festa che va più di moda adesso? La festa che va più di moda? La casa che va più di moda, qual è adesso? La casa che va più di moda? Ma non so, io vado da Marisella Federici, vado dalla Guglia Sospisio, sì, vado a questi signori che ricevono molto bene. Sì. Marta Marzotto non l'abbiamo più a Roma, che faceva delle cose molto divertenti, ma ormai sta a Milano. E, poi ci sono... Poi ci sono dei nuovi che vengono fuori, dei nuovi ricchi che ogni tanto aprono queste case stratosferiche, poi non si sa. Beh, però Berlusconi, tu ci credi a tutta questa storia delle donne, oggettine, eccetera? Beh, che sicuramente sia uno pazzo delle donne, sì. Sì. Che piace le donne, sì. Secondo me ha naturalmente un pochino esagerato, perché tu, come tutti gli uomini potenti, sì, hanno un po' mania di onnipotenza, su questo non c'è dubbio, sì, ma però onestamente lui non ha preso. Beh, adesso le aiuta, adesso le aiuta queste ragazze. Lui le aiutare tutte, adesso se quella è la Rubi era minorenne non lo sappiamo, ma era una di 17enne che sembrava, perché io l'ho vista, sembrava 20 anni. Che ma te ti piace Rubi oppure ti piace, beh tu mi sa che sei dall'altra sponda però, Cioè? No... A me piace tutto quello che è bello. Ti piacciono? Sei bisex, dai, bisex. Beh, ma d'altra parte come negli antichi a Roma e antica Grecia, il bello piaceva. Ah, tu, a te, ma tu pratichi ancora sesso o no, principe? No, adesso no, basta. No, ma tanto che non va che più. Voglio. Adesso uno guarda, gli piace, si diverte. Ah, guardi, ti piace guardare, ti piace guardare. Ti piace guardare, dai. Beh, la battuta soprattutto, sì. Come la battuta? Beh, non è, però non ci sono più delle feste trasgressive come c'erano negli anni 70, negli anni 80. Comunque, 70, ti piace, sei a voile et à vapeur, come si dice in francese. A voile et à vapeur, diciamo così. A voile et à vapeur. Ciao, principe, a presto. Ciao, ciao, ciao. A tutti, un abbraccio a tutti. Ciao. Chi c'è qua? Ciao. Fammi sentire un attimo Giuseppe da Milano, dai. Giuseppe da Milano, su. Giuseppe, pronto? Forza, vai. Pronto, buonasera, Cruciani. Sì, vai. Volevo chiedere una cosa, prima lei ha posto una domanda al signor Zunino, il signore che è intervenuto, che non so chi è, sì, sì. Dicendo che secondo lei la crisi mondiale è dovuta, non so, a colpa degli ebrei, no? No, io non ho detto questo, io gli ho chiesto... Ah, secondo, sì. No, ma non gli ho chiesto nemmeno questo, allora che vuole dire sulle banche? Non ho capito. No, no, non è che voglio dire sulle banche, perché mi sembra di aver capito, no? Ora non so se mi sbaglio, che non, magari non ho seguito, non ho sentito bene... che la crisi mondiale è stata colpa degli ebrei, perché sono a capo. Vabbè, lui direbbe, avrebbe detto così, ma smentisce. Dunque? Ah, smentisce. No, però quello che voglio dire io, premetto che non ho niente e nulla contro gli ebrei. Vabbè, premetto questo, ecco. Premesso questo, allora? Mi ha fatto vedere un video su YouTube dove praticamente fanno vedere che tutti, diciamo, banche, grosse banche multinazionali a capo. Chi c'è? Chi c'è? Presidenti che sono, diciamo, che sono ebrei. Così. Vabbè, questo non vuole dire nulla, dai. Ci sentiamo quando è? Oggi che è venerdì? Ci sentiamo lunedì, va? 18:30, ciao.